Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Oggi parliamo di donne con un editoriale di Elena Genero Santoro. Un film del 96 che Elena ricorda con molto piacere è Nella sua pelle. Si tratta di una commedia, non è impegnativa ma contiene delle grandi verità. Parla di due fidanzati che litigano ormai di continuo, lui ha deciso che non vuole più saperne, però per un sortilegio il mattino dopo si svegliano ognuno nel corpo dell'altra. E da quel momento sono costretti a frequentarsi per forza, perché devono collaborare per mantenere una parvenza di normalità. Devono scambiarsi il lavoro, innanzitutto, il ruolo sociale. Tra i due il più sbruffone è lui, che è ora nel corpo di lei, ed è talmente montato e indisponente da credere di poter andare avanti da solo. La scena più gustosa del film è quando lui, sempre nel corpo di lei, capitola di fronte all'arrivo delle mestruazioni. Si sveglia un bel mattino e non capisce più niente. Ha solo voglia di piangere, senza un motivo apparente. Si sente sottosopra, prova dolori mai provati prima, ed è talmente tanto in balia dell'ondata di ormoni da alzare bandiera bianca e accettare tutte le condizioni. Più recentemente sono usciti fuori dei video in cui due uomini decidono, chissà perché, di provare i dolori del parto con un simulatore. Si tratta di un apparecchio che manda loro delle scariche elettriche attraverso dei sensori posti sull'addome. I due, già padri, erano baldanzosi nella stanza del tormento. Scherzano per un bel pezzo con le mogli presenti e poi alla prima scarica iniziano a ridere un po' meno. E quando uno dei due chiede «Ma era questa l'intensità massima?», l'infermiere risponde «No, no, siamo solo a metà». Quindi è inutile dire che i due escono molto più dimessi di come erano entrati. In compenso, ridono le mogli alla fine. Il corpo delle donne, c'è poco da dire, non è come quello degli uomini, neanche se la medicina di genere è una specialità che sta prendendo piede solo di recente. Per anni i farmaci sono stati sperimentati su panel maschili e quello femminile era assimilato a un corpo maschile in miniatura. Però queste ondate ormonali con cui bisogna combattere mensilmente e anche in varie fasi della vita non sono bazzecole e non sono neppure invenzioni per essere compatite. Per millenni, infatti, si è sempre parlato di ciclo mestruale come qualcosa da sminuire o da ignorare completamente. Si considerava come qualcosa di impuro o addirittura di isolante, come possiamo leggere nell'Antico Testamento. Poi con l'avvento della psicanalisi si è data una spiegazione alla sindrome premestruale, ossia le donne isteriche non accettavano la loro femminilità. Però in un articolo sulla Huffington Post si parla di uomini che riescono a sopportare dolori addominali per 49 minuti e poi chiedono aiuto, mentre le donne riescono a sopportare i medesimi dolori per 65 minuti. Lo stereotipo cucito addosso alle donne però vuole che le donne tendano all'esagerazione e alla drammaticità, anche quando si tratta di dolori. Il risultato è stato che il dolore delle donne è sempre apparso meno reale di quello provato dagli uomini, anzi le donne vengono spesso definite isteriche. In realtà non è proprio così. Infatti in alcuni articoli, come quello della dottoressa Alessandra Graziottin, si parla di nuove prospettive sul ciclo mestruale e sul corpo delle donne. Ci sono dei sintomi, ad esempio, che sono sempre stati sottovalutati, ma in realtà, chimicamente parlando e biologicamente parlando, tutto ciò che le donne sentono a livello emotivo è reale. Non si tratta quindi di paturnie, ma si tratta di peculiarità e di disturbi di un corpo che è diverso da quello maschile. Ad esempio il mal di schiena, il nervosismo, l'insonnia, il mal di pancia, i disturbi circolatori e le tachicardie sono disturbi reali che si sommano a volte anche negli stessi giorni e che ovviamente portano dei risultati negativi su quella che è la vita della donna. In un altro interessante articolo della stessa dottoressa si parla del modo in cui è cambiato il ciclo della donna negli ultimi 100 anni. Infatti nel 1914 le donne avevano circa 140 o 150 cicli mestruali nell'arco della vita. Il primo figlio presto, tante gravidanze, allattamenti prolungati, blocchi mestruali da fame, povertà, carestie, guerre. Nel 2014 le cose sono molto diverse. Infatti le donne nel mondo ad alto reddito hanno circa 450 o 480 cicli per una vita fertile. Quindi si tratta di triplicare quello che succedeva nel 1914. Il primo figlio arriva molto più tardi, ci sono poche gravidanze, l'allattamento è breve e l'alimentazione è migliore. Si tratta però di avere più cicli, quindi più infiammazione, più dolore e più patologie legate a queste fasi particolari della vita della donna. Quindi chi più e chi meno, le donne sono creature fisicamente disturbate. Non malate, ma sicuramente fanno il doppio della fatica degli uomini. Ci ammaliamo anche molto di più oltre ad avere disagi ormonali. In alcuni periodici sono usciti fuori degli articoli che parlano del sistema immunitario delle donne, che è nettamente diverso da quello degli uomini. Le donne hanno un sistema immunitario più flessibile rispetto a quelli degli uomini, altrimenti nel momento in cui restano incinta scatenerebbero una marea di anticorpi contro il feto, quindi devono adattarsi. Le donne nell'arte di adattarsi sono maestre. Le donne convivono quindi con un corpo complicato che si è adattato alle piccole difficoltà che la vita di una donna comporta. Si tratta di fare sempre tutto, essere madri, mogli, figlie, lavoratrici, in casa e fuori casa. Quindi andare a dormire per ultime e alzarsi per prime, stringere i denti e sopportare. Insomma, assicurare che tutto quanto stia bene in ordine. Nel peggiore dei casi ci si prende un analgesico. Di solito neanche quello, perché le donne, si sa, vogliono essere eroiche. E tutto sommato, diciamolo, lo sono. Su una nota leggermente diversa parliamo di un editoriale di Stefania Bergo. Stefania ci parla della giornata di sensibilizzazione contro le spose bambine. Si tratta di un fenomeno drammatico. Le bambine vengono vendute dalle famiglie per denaro o per protezione, in contesti di estrema povertà, degrado sociale o guerra. Quando una bambina compie 10 anni il suo mondo cambia, si affaccia alla pubertà con tutte le sue trasformazioni fisiche e psicologiche. Non è più una bambina, ma non è neppure un adolescente. Si tratta dell'età in cui si gioca ancora con le bambole, ma si avverte già il fremito delle farfalle nello stomaco quando si incrocia lo sguardo di un coetaneo. Il corpo cambia, cresce e si delinea. E magari indossare scarpe col tacco della mamma diventa molto più di un gioco. Si delinea insomma il futuro di una giovane donna, una presenza importante nella società del domani. Qualcuno ha detto che bisogna educare le bambine di oggi per salvare il mondo di domani, e in effetti Stefania è pienamente d'accordo. Infatti, scolarizzare e l'intessere sane relazioni sociali con l'altro sesso, oltre a un'educazione portata avanti in parallelo con l'attitudine al rispetto di genere, sono step fondamentali per sanificare uno scenario distopico di discriminazione e di violenza imperante. In altri posti del mondo, però, una bambina intorno ai 10 anni vede il suo orizzonte di possibilità restringersi drammaticamente, a volte svanisce del tutto. Ci sono bambine forzate a sposarsi, costrette ad abbandonare le loro famiglie, la scuola e a gestire gravidanze precoci, senza contare gli aborti selettivi e l'infibulazione. All'ingresso della pubertà in troppi angoli del mondo, una combinazione di fattori sociali, culturali e di costume, di discriminazioni e di abusi, può ostacolare il cammino delle future donne. Fin dalla nascita le bambine sono considerate proprietà di qualcuno, della famiglia prima e dei mariti poi. Sono usate come merce da vendere, in cambio di denaro o per dare lustro e protezione alle famiglie umili. In alcuni casi si tratta addirittura di trofei di guerra. Vengono contratti e matrimoni forzati che possono avere effetti disastrosi non solo sulla stabilità psicologica ed emotiva delle bambine, ma anche su quella fisica. I paesi in cui le spose bambine sono più numerose sono quelli in cui più di frequente si muore di parto. Infatti le giovani madri non sono in grado di sopportare le fatiche della gravidanza. Stando ai dati forniti dal Fondo delle Nazioni Unite e riportati da Amnesty International, 13,5 milioni di ragazze ogni anno nel mondo sono costrette a sposarsi prima di 18 anni con uomini molto più vecchi di loro. Il fenomeno del matrimonio forzato è la conseguenza di una perpetua violazione dei diritti delle donne. Oltre a limitare la loro possibilità di affermazione personale, le ragazze sono costrette ad abbandonare l'istruzione. Sono vendute, maltrattate e violentate, in alcuni casi costrette a prostituirsi dai mariti stessi. La discriminazione nei confronti delle donne nasce ancora prima che queste esistano al di fuori dell'utero. In alcune zone del mondo, infatti, sono frequenti gli aborti selettivi, soprattutto in Cina e in India, nel caso in cui il feto sia femmina. Di lì in poi, per milioni di bambine, l'esistenza sarà un percorso in salita, scandito da tappe dolorose, abusi e umiliazioni. Le mutilazioni genitali in Africa, ad esempio, mettono a rischio la salute di 12 milioni di ragazzine tra i 10 e i 14 anni, per non contare il trauma profondo che va ben oltre il dolore del corpo. Si stima che siano oltre 60 milioni nel mondo le spose bambine, con il triste primato in India, Nepal, Mozambico, Nicaragua e Etiopia. Adolescenti e bambine in età prepuberale, a volte anche di soli 6 o 7 anni, vengono private del diritto di giocare, di studiare e di scegliere. Il paese con il più alto tasso al mondo di spose bambine, al di sotto dei 15 anni, è il Bangladesh. In Afghanistan molte arrivano a malapena ai 9 anni. Nello Yemen è comune sposarsi prima dei 18 anni, in genere intorno ai 15, e in alcuni casi addirittura tra gli 8 e gli 11. In Iran la legge prevede un'età minima delle spose di 13 anni, ma spesso si registrano casi di bambine molto più giovani. In Marocco fino al 2014 la legge ha permesso il matrimonio riparatore, cioè avvenuto in seguito a uno stupro. La modifica della legge è avvenuta in seguito al suicidio di Amina, sposa bambina violentata dal proprio marito, che ha suscitato l'indignazione popolare, fino a spingere molte organizzazioni locali e internazionali a lottare per ottenere una maggiore tutela delle donne. Tutti questi paesi vengono meno alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, a cui aderiscono 194 stati al mondo su 196. Mancano all'appello gli Stati Uniti e la Somalia. La Convenzione sancisce per ogni minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su tutte le questioni che riguardano il bambino, come da articolo 12. Sancisce anche il diritto alla tutela da ogni forma di violenza, attacco, vessazione, maltrattamento o sfruttamento fisico o mentale sotto la potestà di genitori, tutori o altri, come da articolo 19. Oltre a questo, sancisce il diritto alla tutela da ogni forma di sfruttamento o vessazione sessuale, come da articolo 34. E per concludere, sancisce anche il diritto alla protezione dall'essere rapito, venduto o oggetto di tratta di esseri umani, come da articolo 35. Ci sono moltissime iniziative mediatiche, come ad esempio Hashtag in difesa, ossia una campagna che si propone di realizzare mediante raccolta fondi progetti volti a combattere e a prevenire gli abusi, oltre alle discriminazioni di genere. Si tratta quindi di un modo per accendere i riflettori mondiali sulla situazione di emarginazione e violenza sulle bambine nel mondo. I fondi aiuteranno le bambine domestiche del Perù, le spose bambine del Bangladesh, le mamme bambine della Costa d'Avorio e le bambine salvate dall'infanticidio in India. Oltre a questa c'è la campagna Hashtag Orange Revolution, la rivoluzione arancione, ossia un flash mob globale sui social network per chiedere al popolo dei social di testimoniare il proprio sostegno alla lotta contro gli abusi sui bambini e in particolare sulle bambine. Si tratta di indossare qualcosa di arancione e postare selfie con l'hashtag Orange Revolution su Facebook, Twitter o Instagram. Perché l'arancione? Perché in qualche modo è un segnale di rottura dagli stereotipi di genere che impongono il rosa come il colore delle bambine. Infine occorre citare Girls Not Brides, ossia un'associazione mondiale formata da 180 organizzazioni che si batte contro il matrimonio delle bambine. In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine, il 10 novembre, questa associazione ha organizzato un ritrovo su Google per discutere di questo problema e per cercare soluzioni globali. Insomma, molte delle bambine che vivono in Italia o in Europa sono fortunate perché percepiscono tutto come un gioco di cui non si conoscono i dettagli, dall'indossare le scarpe della mamma fino a al far sposare Ken con Barbie, si sfila con i tacchi, si corre a piedi scalzi, insomma, si hanno una serie di libertà che però non hanno tutte le bambine del mondo. Infatti, la naturalità della nostra esistenza, per altre bambine e per altri individui, è solo un miraggio e non bisogna mai dimenticarlo. Nascere da questa parte del mondo è, malgrado tutto, una fortuna. E anche se qui altri comportamenti malati portano ugualmente ad abusi e violenza gratuita su bambine e giovani adolescenti, siamo comunque molto fortunate. Di questi altri argomenti parleremo un'altra volta. Anche oggi leggeremo un estratto. L'estratto di oggi è un racconto. Si intitola Due mamme e mezzo ed è scritto da Paola Casadei. Sto per partire. Tra qualche giorno raggiungo il mio compagno che per ora lavora a Newcastle, in Inghilterra. Siamo per avere un figlio, il nostro primo figlio. Oggi è stato un ritrovo molto particolare a casa dei miei genitori, nonni in visita. Una festa, due mamme e mezzo di una stessa famiglia riunite per ricordare la sola mamma che non è potuta venire. Lei era per tutti nonna Meo. Oggi avrebbe compiuto 100 anni, ma ci ha lasciati da un po' ormai. Senza lasciare solo tristezza, ma anche tanta serenità e gioia. Senza di lei non ci sarebbe stata tutta questa cascata di mamme, figli e nipoti. Lei c'era durante la guerra, ha salvato sua figlia, mia nonna, dai bombardamenti. Si era guadagnata con molta fatica un posto come infermiera all'ospedale. E nel pieno della guerra, con suo marito già prigioniero in Russia, aveva anche accettato l'invito di portare sua figlia al sicuro nei sotterranei nell'ospedale. Erano tanti i bambini radunati là. Un giorno una bomba aveva fatto cadere in briciole il vetro di una finestra, e la nonna ricorda ancora che una suora aveva raccontato loro, per tranquillizzarli, che si trattava di zucchero filato. Abbiamo ricordato questi episodi descritti da mia nonna mangiando cucina francese e brindando con lo champagne. Io ho vissuto per tutta la vita in Francia, il mio compagno è inglese, non so dove vivranno i miei figli, nelle generazioni future, però non dimenticherò mai questo pranzo in famiglia. Mi accarezzavo il pancione, mia mamma si è ricordata che lo faceva sempre anche lei, e mia nonna ha detto la stessa cosa. Non credo che si tratti di qualcosa della nostra famiglia, deve essere un gesto che fanno tutte le future mamme. Il pancione è un momento davvero privilegiato nella vita di una donna, il passaggio da donna a mamma. Allo stesso tavolo sedeva il nonno, allegro, forse un po' grazie allo champagne. È raro vederlo così felice. Però, nonostante la malattia e gli acciacchi che da anni non lo risparmiano, è felice. Ha visto la sua famiglia, o almeno una parte di essa, riunita, e quindi è felice. Anche lui aveva la sua storia di guerra da raccontare. Una giovane donna, sua zia. Zia Leda gli faceva un po' da mamma, perché la sua vera mamma aveva appena avuto altri due gemelli, e quindi lo stava tenendo per mano in quel momento. E c'è stato un bombardamento in città, Una dozzina di persone passavano in fretta in una piazzetta a poche decine di metri dalla casa di mia nonna, dove ho trascorso tanti mesi durante le estati della mia infanzia. Insomma, la bomba le ha uccise tutte, tutte tranne il nonno. Lui è rimasto solo ferito. Aveva 5 anni e mezzo. Una scheggia della bomba lo aveva colpito alla testa. Era coperto di sangue. Qualcuno ha preso una carriola e ce l'ha messo dentro, insieme a un piccolo materasso. Hanno trasportato il nonno a piedi fino all'ospedale. La zia non è mai stata ritrovata. Beh, sono stati ritrovati dei brandelli. Ero persa nei loro racconti. In questo periodo mi sento ossessionata dal pensiero della guerra. Ho paura che i ricordi finiscano. Dopo i racconti dei ricordi di guerra, di quelli che erano stati bambini durante la guerra, mia nonna ha tolto dalla sua grande borsa un album di fotografie. La prima ritrae me e nonna Mea, dolce bisnonna. Per 12 anni io sono rimasta la più giovane della famiglia e ogni anno ci fotografavamo insieme. La più giovane e la più anziana della famiglia. Vivevo già a Bordeaux con i miei genitori e mio fratello, ma tornavamo a trovare la famiglia molto spesso. D'estate in particolare, trascorrevamo tutte insieme alcune settimane nella casa di campagna della mia nonna materna e alla fine di ogni vacanza io mi sedevo accanto alla bisnonna per la classica foto. Lei aveva un volto così sereno, ricordo i suoi occhi azzurri più chiari dei miei, non si muoveva più facilmente, la ricordo solo seduta, ma stava bene, parlava e sorrideva sempre, mi accarezzava con le sue mani nodose, teneva la sigaretta con 4 dita e mangiava tante pesche, io la ricordo sempre con una pesca in mano. L'ultimo anno era troppo sofferente e nessuno giustamente si è sentito di scattare la foto triste del tempo che avanza. Ripenso spesso a quella donna forte, delicata, sorridente, dal sorriso dolce e dai capelli sempre raccolti. Le volevamo tutti bene. L'ultima foto dell'album ritrae mia madre in mezzo alla nonna e alla bisnonna, nel giorno del suo matrimonio. Tre mamme che fanno parte della mia vita, che mi hanno riempita di sentimenti, esperienze, giochi e risate, vite piene d'amore. Oggi il cielo è blu e non c'è nemmeno una nuvola. L'aria è frizzante e tutti sono allegri. Mi accarezzo il pancione ancora una volta. Penso che il tempo avanza, come le onde del mare, e il segreto per andare lontano è rimanere leggeri e lasciarsi trasportare da queste oscillazioni con fiducia. Oggi, in via del tutto eccezionale, leggeremo anche un altro racconto. Ne leggeremo uno mio, che si intitola Ammazzare Dave non è poi così difficile. Oggi pomeriggio ho l'autopsia, annunciò orgoglioso. Ah sì? Chi sarà a farla? Gli rispose lei mentre combatteva con il phon e i ricci castani. Boh. Penso al professore dell'altra volta e si stiracchiò soddisfatto. Era bello avere un amico iscritto a chimica forense, pensò lei. Eh sì, era proprio. E un lampo di genio la colpì. Ma fammi capire una cosa. Quindi se io decidessi di ammazzare una persona, tu potresti dirmi come non lasciare traccia sul corpo? Chiese colpita improvvisamente da quell'idea. Beh, non è mica così semplice, e poi comunque esiste anche la scena del delitto, replicò lui. Ma tu sai come truccare anche quella? Insistette lei. Truccare? Non penso sia un termine adatto, ma poi io non potrei. Io sono dalla parte della legge, biascicò pensieroso. Il suo sguardo però diceva che ci stava riflettendo. L'amica lo fissò. Ombre nere più che eloquenti avevano preso a danzare negli occhi nocciola dell'amico. Quella coreografia di tentazione e di peccato le piacque. Lui alzò gli occhi e incrociò quelli di lei. Guarda che dovresti cancellare un sacco di prove, le disse. So già come fare, rispose lei di slancio. Sarà facile, andrà tutto bene. Ci sono le telecamere in alcuni punti della città, continuò il ragazzo. So già come fare, ripeté lei. Si guardarono negli occhi e il patto fu silenziosamente sancito. Dave sarebbe morto. Lei sorrise all'idea. Quel ragazzo che ne aveva usate e spezzate sin troppe di vite avrebbe perso la sua alla fine. In un'impari resa di conti. La sua sola morte, infatti, pensò lei, non avrebbe mai potuto ripagarla di tutto quello che aveva passato per causa di quel rifiuto umano. Non avrebbe ripagato né lei né tutte le altre ragazze che erano finite nelle sue grinfie, ma sarebbe stato sicuramente un modo gradito di addolcirsi la vita per tutte loro. Pensò allo sguardo soddisfatto, indifferente e strafottente di Dave e chiamò il suo amico spacciatore. Dave sarebbe morto, roba tagliata male, era facile. Organizzò meticolosamente tutto ciò che c'era da organizzare e sentì un'ondata di gioia entrarle dentro, prepotentemente, violentemente e insistentemente, un po' come c'era entrato lui. Pregustò l'odore di morte e si sentì finalmente in pace. La violenza sarebbe stata ripagata con la violenza. Su questa nota un po' inquietante e un po' noir, Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un grande bacio, ciao!